giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Al canale navigabile di Trieste le operazioni di carico dei motori Wärtsilä destinati alla Daewoo alla Flex, siglato un accordo tra la multinazionale e FIM Fiom Wilm per mantenere la produzione a Trieste evitando la delocalizzazione in Romania grazie a 48 uscite volontarie e al mancato rinnovo del contratto di 72 interinali. Spero che il dopo Fedriga sia Fedriga di nuovo in Friuli Venezia Giulia. A dirlo è il governatore stesso che alla domanda su un suo possibile incarico nel prossimo governo ha risposto auspicando di essere rieletto presidente della regione il prossimo anno. Madre e figlio intossicati dal monossido di carbonio in un appartamento di San Floriano del Collio, ricoverati in ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita. I rincari dell'energia rischiano di far chiudere il 15% degli alberghi di montagna durante la stagione invernale. A Trieste uno su quattro potrebbe fare la stessa scelta, l'allarme di Federalberghi. Convenzione tra Confidi, Confapi, Confcommercio e Confindustria Udine per favorire l'interesse delle imprese per le fonti rinnovabili di energia, garanzie fino all'80% della spesa. Nei centri di accoglienza di Trieste, accanto ai profughi ucraini, iniziano ad arrivare anche i primi disertori russi in fuga dal richiamo di leva deciso da Vladimir Putin. A Udine è reintrodotta la zona A, traffico limitato in centro storico, telecamere accese da gennaio, ma il comune garantisce nel primo periodo non saranno emesse multe. A Gorizia nel pomeriggio l'inaugurazione di Gusti di Frontiera, 320 stand con espositori da tutto il mondo. Trenitalia rafforza i collegamenti da tutta la regione con 46 treni straordinari. Ingresso gratuito a tutte le mostre a Palazzo Attems e ai musei provinciali. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Daniele Lettige e Francesca Vigori. Nella zona industriale di Trieste dunque sono iniziate le operazioni di carico dei propulsori realizzati dalla Wärtsilä sulla nave che li consegnerà alla sudcoreana Daewoo. E alla Flex è trovato un accordo per mantenere la produzione nel sito di Trieste grazie a 48 uscite volontarie e al mancato rinnovo del contratto di 72 interinali. L'intesa è stata siglata dai confederali, le perplessità del USB. 4 dei 12 motori destinati alla Daewoo sono stati trasportati stamane dallo stabilimento della Wärtsilä di Bagnoli della Rosandra al piazzale della Sea Dock, che coordina le operazioni di trasporto in attesa di essere imbarcati sulla nave UHL Fusion ormeggiata sulla banchina Wärtsilä del canale navigabile. Non è un'operazione semplice, ci vorrà qualche giorno, data anche l'incertezza del meteo. Attesa per l'arrivo degli ultimi documenti, poi il primo motore è stato imbarcato verso le 11:30 con i gruisti della Wärtsilä e gli imbragatori del porto, come da procedura standard. La situazione è stata sbloccata ieri mattina quando Wärtsilä ha comunicato ufficialmente ai sindacati il ritiro della procedura di licenziamento avvenuta dopo la decisione del giudice del lavoro di venerdì scorso. I motori partiranno verso la Corea del Sud con il beneplacito dei metalmeccanici di CGL CISL UIL. La regione resta ferma sulla decisione di procedere con il ricorso, fa sapere all'assessora al lavoro Alessia Rosolen, dato che Wärtsilä non ha ancora garantito la rinuncia a impugnare la sentenza che l'ha condannata per condotta antisindacale venerdì scorso. Sull'altro fronte sindacale, quello della Flex, stamane sono state firmate, formalizzate le prime uscite volontarie dei 48 lavoratori, una quindicina sono prossimi alla pensione, altri hanno trovato un lavoro o hanno aperto la partita IVA. E il risultato dell'accordo raggiunto dalla multinazionale americana e i sindacati Fiom, FIM e Wilm, che sarà ufficializzata il 20 ottobre al MISE. L'azienda non ha rinnovato il contratto a 72 lavoratori somministrati, ma garantito che la produzione resta a Trieste e non sarà delocalizzata in Romania. Nel sito, che conta 540 dipendenti, la proprietà aveva dichiarato l'esubero di 280 lavoratori e di questi oggi rimarranno 160, dove la vittoria chiede l'USB, che non condivide l'accordo delle organizzazioni sindacali che, secondo loro, prevede l'uscita complessiva di 140 lavoratori. Trieste, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Fedriga guarda il suo futuro da candidato a presidente della regione Friuli Venezia Giulia e lo farà con una sua lista. Massimiliano Fedriga guarda il suo futuro da candidato alla presidenza della regione, non da ministro e tantomeno da segretario della Lega. Lo dice a margine della presentazione dei primi progetti di collaborazione pubblico-privato in campo sanitario tra la regione e la Novartis, multinazionale farmaceutica. La futura premier Giorgia Meloni forse ha già avuto un dialogo conoscitivo sulle intenzioni di Fedriga, che vorrebbe però continuare nella sua azione di governatore. Mi piacerebbe continuare in Friuli Venezia Giulia, ricandidarmi, come ho sempre detto, ricandidarmi il prossimo anno, e dopo ovviamente dipenderà dalla fiducia che vorranno darmi i cittadini di questa regione. E si candiderà con una sua lista. Ci sarà la lista Fedriga, ci sarà la lista Lega, ci sarà la lista di Forza Italia, ci sarà la lista di Fratelli d'Italia, ci saranno tutte le liste che mi appoggiano, e mi sembra che su questo tutte le forze politiche abbiano ribadito anche dopo il voto la volontà di continuare insieme, confermando il percorso fatto in questi anni, che penso in mezzo a molte difficoltà ma sia stato positivo. Secondo Fedriga, Giorgia Meloni sarà incaricata di formare il governo. Sul risultato delle elezioni il presidente della regione non nasconde la realtà delle cifre. È ovvio, dice, che il risultato non è stato entusiasmante per la Lega, ma penso non sia necessario drammatizzare, piuttosto avere senso critico e l'ottimismo di costruire e andare avanti insieme. Ho visto la Lega quando era al 4%, aggiunge, risposta conseguente alla domanda se ci sarà un nuovo Salvini nella Lega. Il governatore del Friuli Venezia Giulia sottolinea che il Consiglio federale ha confermato una posizione unitaria. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono stabili le condizioni delle due vittime di un'intossicazione da monossido di carbonio avvenuta questa notte a San Floriano del Collio. Le due vittime sono madre e figlio, rispettivamente di 73 e 59 anni, residenti assieme in una frazione del comune isontino. Nelle prime ore di questa mattina i due si sono svegliati accusando cefalea, nausea e vomito e hanno chiamato il numero unico di emergenza. Soccorsi attorno alle 5 dai sanitari della Sores, che li hanno trovati sempre coscienti, sono stati trasportati all'ospedale di Gorizia in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Dopo essere stati sottoposti ai primi accertamenti, nel corso della giornata saranno trasferiti a Trieste, dove saranno sottoposti a terapia iperbarica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Gorizia, che stanno investigando per stabilire le cause della perdita di monossido che ha provocato l'intossicazione. Per il momento sono solo stime, il 15% in montagna, a Trieste 1 su 4, la quota di alberghi che chiuderà nella stagione invernale per l'aumento dei costi dell'energia. Per Federalberghi si potrebbe risparmiare con la recente legge sulle comunità energetiche, ma mancano ancora i decreti attuativi. Chiudere per sopravvivere, un inverno, quello in arrivo, che in montagna rischia di sbarrare le porte degli alberghi. Il 15% delle circa 90 strutture sono a rischio stop, avverte Federalberghi. La stagione dello sci inizia l'8 dicembre, terremo duro fino all'Epifania, conferma la presidente regionale Paola Schneider, poi si vedrà. Tutti stanno facendo le proprie valutazioni, piccoli e grandi. Un albergo medio della montagna friulana sui 40 posti letto ha visto passare la bolletta della luce da 1.500 euro al mese a 5.000. Uno grande è successo a Tolmezzo da 5 a 16.000. Importi costantemente almeno triplicati per l'energia. Finora con il gas è andata meglio, ma in futuro chissà. E così si ipotizzano soluzioni. Chiusure anticipate oppure aprire solo nei fine settimana, ma il rischio disaffezione della clientela è altissimo. Oppure mettere in conto un supplemento energia, che però non è previsto per legge, e se il cliente si rifiuta di pagarlo, che si fa? Senza contare che proprio le famiglie medie, fiaccate dal caro bollette come le imprese, potrebbero rinunciare alle vacanze invernali. Fatto sta che la montagna tutto l'anno, quella destagionalizzata secondo i progetti condivisi con Promoturismo, proprio agli operatori delle terre alte oggi sembra un miraggio lontano, con ricadute negative anche sull'occupazione. Decisioni analoghe potrebbero essere prese anche a Trieste da una ventina di albergatori, di fatto uno su quattro del settore accoglienza, conferma Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi nel capoluogo giuliano. Preoccupazioni condivise anche da Pordenone e Gorizia. Le più in difficoltà sono le strutture medio-piccole, dice il presidente della destra Tagliamento Giampiero Zanolin. Le chiusure temporanee rischiano di diventare definitive. Le richieste sono chiare: un tetto al prezzo del gas e luce subito, e poi le comunità energetiche, virtuoso meccanismo di produzione e consumo condiviso che consentirebbe agli albergatori risparmi importanti. La legge c'è, ma non ancora i decreti attuativi. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Confidi Friuli ha siglato un patto con Confapi Friuli Venezia Giulia, Confcommercio Udine e Confindustria Udine per favorire l'interesse delle imprese verso la produzione di energia da fonti rinnovabili. La convenzione impegna le parti a una collaborazione per promuovere iniziative finalizzate a valutare le implicazioni che i rischi climatici e ambientali comportano nelle attività delle imprese, portandole a rivedere il modello di business strategico. Al fine di supportare la liquidità di imprese e liberi professionisti in difficoltà per i rincari dei costi delle forniture di energia, Confidi di Friuli ha inoltre previsto la concessione di garanzie per i finanziamenti rateali fino a 50.000 euro. E per il caro energia cresce anche la preoccupazione dei sindaci in vista dell'inverno. Si fatica a chiudere i bilanci per pagare le bollette, in difficoltà soprattutto i comuni medio-piccoli, ed è pioggia di richieste di aiuto all'ANCI. A Remanzacco la sindaca Daniela Brizzi è riuscita a fatica a far quadrare i conti. Per poter pagare le bollette sta usando l'avanzo libero di amministrazione, 170.000 euro in più di stanziamenti per i costi energetici, coi quali potrà arrivare però solo fino a fine anno, dice. L'anno nuovo resta una grande incognita, afferma preoccupata anche per i suoi concittadini, mentre per risparmiare, come già altri sindaci, annuncia l'intenzione di spegnere le luci sulle strade comunali dalle 2 alle 5 del mattino. Gemona lo ha già fatto ad aprile coi primi aumenti in bolletta, riducendo così i costi del 35%. Se costretti taglieremo ancora, puntando a razionare i consumi e garantire al contempo i servizi essenziali e la tenuta del bilancio, senza gravare su cittadini e imprese, annuncia il sindaco Roberto Revelant, che intanto ha accelerato un massiccio programma di efficientamento energetico degli edifici comunali da oltre 1.200.000 euro. Sulla stessa strada San Vito al Tagliamento, dove il comune punta soprattutto sulla comunità energetica che sta nascendo in zona industriale. Nessun taglio all'illuminazione pubblica, ma nei nostri edifici, salvo le scuole, terremo spenti i termosifoni finché potremo, afferma il sindaco Alberto Bernava, che invoca nuovi aiuti da Stato e Regione. Sono solo alcune delle tante segnalazioni di sindaci in difficoltà raccolte nelle ultime settimane dall'ANCI. Al nuovo governo l'Associazione dei Comuni è pronta a chiedere altre risorse. Quelle in arrivo dall'ultimo decreto aiuti non bastano, sottolinea il segretario generale di ANCI FVG Alessandro Fabbro. Guardando al futuro, Fabbro considera imprescindibile l'autosufficienza energetica dei comuni medio-piccoli con meno di 5.000 abitanti, che fanno i tre quarti della regione, un fronte sul quale non siamo all'anno zero, afferma. L'Agenzia per l'Energia della Regione, che tra i suoi soci conta l'ANCI stesso, ci sta già lavorando coi primi progetti pilota di comunità energetica. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. I gestori del servizio idrico integrato del Friuli Venezia Giulia hanno firmato oggi a Gorizia la costituzione di una rete d'impresa finalizzata alla presentazione di progetti comuni per attingere alle risorse stanziate dal PNRR. L'occasione ha segnato anche la nascita di un tavolo di confronto permanente che permetterà ai gestori di progettare gli interventi infrastrutturali del sistema idrico regionale sfruttando tecnologie e innovazione con attenzione particolare alla sostenibilità ambientali. La rete d'impresa sta attuando in particolare due progetti che riguardano la realizzazione di interventi per la riduzione delle perdite nelle reti idriche e la costruzione di un impianto regionale di essiccamento fanghi, infrastruttura a cui verrebbero destinati tutti i fanghi liquidi e disidratati prodotti dai sistemi di depurazione delle acque reflue urbane. A Trieste, nei centri di accoglienza per i profughi della guerra, accanto agli ucraini giunti negli scorsi mesi, iniziano ad arrivare anche i primi disertori russi in fuga dalla coscrizione decisa da Putin. Ne abbiamo parlato questa mattina. Buongiorno Regione. Dalla Russia o dalle zone occupate a Trieste per evitare di dover rispondere alla chiamata alle armi e finire a combattere in Ucraina, magari contro parenti che stanno nei territori liberi o a compiere atti contro i civili. Non sono solo profughi provenienti dalle regioni dell'Ucraina più martoriate della guerra ad affidarsi alle strutture messe a disposizione dalla Caritas e dalla prefettura. Negli ultimi giorni, dopo la mobilitazione generale, sono infatti arrivati anche alcuni uomini con passaporto russo. A Buongiorno Regione è intervenuta Katarina Modic della Caritas di Trieste. In questo momento, proprio nei scorsi giorni, sono arrivati i primi due nuclei misti russo-ucraini, cioè cittadini russi che hanno deciso, a differenza appunto degli ucraini che in questo momento hanno nella maggior parte la protezione temporanea, concessa appunto dal Ministero, e loro hanno chiesto asilo politico. Sono i primi, però presumo che potrebbero esserci arrivi. Con il successo della controffensiva di Kiev, che ha messo in sicurezza parte del paese, tra i profughi ospitati qualcuno ha fatto ritorno a casa, anche se la maggioranza ha preferito rimanere. I want something better for... Voglio che i miei figli abbiano un futuro migliore, perché anche se la guerra finisse domani, il paese sarebbe a pezzi e tutto da ricostruire. Tutti i nostri amici sono scappati in diverse parti del mondo, nessuno è più tornato in Ucraina. I nostri genitori sono rimasti a casa e per non farci preoccupare non ci raccontano mai cosa sta succedendo veramente. La presenza di profughi ucraini nel corso dell'emergenza ha raggiunto le 6.000 unità in Friuli Venezia Giulia, la maggior parte ospitata da amici e parenti. Difficile censire quanti siano ancora effettivamente rimasti, ma una buona percentuale è ancora in Friuli Venezia Giulia e cerca ora una sistemazione nelle strutture CAS. Per una famiglia, come dire, che ospita amici e parenti a casa, quando si tratta di un periodo lungo comincia a essere magari impegnativo. E in più c'è un problema anche di sostegno economico, perché da quello che so sono finiti i fondi per il famoso contributo che potevano ricevere dalla protezione civile, che consisteva in 300 euro a persona mensile più 150 euro per ogni minore. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo al meteo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione, le temperature registrate alle 12 a Trieste 20 gradi con mare poco mosso con temperatura di 21 gradi e 5 decimi, a Gorizia 20 gradi, a Udine 19, a Pordenone 18, a Tolmezzo 16 gradi, a Forni di Sopra 13, a Tarvisio 10, a Sappada 9, a Piancavallo 8 gradi, sul Monte Zoncolan 7 gradi, sul Lussari 5, a Lignano 20 gradi, a Grado 19, temperatura del mare 18 gradi e 5 decimi. Veniamo ora alle previsioni. Per oggi cielo in prevalenza coperto sulla zona montana, nuvoloso sulla pianura e variabile sulla costa. In giornata rovesci sparsi ed intermittenti, dal pomeriggio a sera generale peggioramento con piogge intense anche temporalesche, specialmente sulla zona montana e sulla fascia orientale. Sulla costa, dal pomeriggio soffierà vento da moderato a sostenuto, proveniente da sud, e non si escludono mareggiate e acqua alta. Sono le ultime ore in cui indosseremo la mascherina sui mezzi pubblici. Da sabato non sarà più necessario, ma si va verso la proroga di un mese sull'obbligo nelle strutture sanitarie. Venerdì 30 settembre scade la norma che impone di indossare la mascherina sui mezzi pubblici e all'interno delle strutture sanitarie. Il provvedimento non sarà rinnovato. A partire da sabato 1 ottobre cade dunque una delle ultime restrizioni anti-Covid. Su autobus, treni e navi non sarà più obbligatorio l'uso delle mascherine. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei dispositivi di protezione all'interno di ospedali, strutture sanitarie e RSA, è al vaglio del governo un'ipotesi di proroga per un ulteriore mese. La prossima scadenza è quella del 31 ottobre, quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che prevedevano ad esempio l'obbligo della misurazione della temperatura all'ingresso o l'uso della mascherina qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento. Fino al 31 dicembre 2022, infine, resta l'obbligo di Green Pass per operatori sanitari, ricoverati e visitatori negli ospedali e nelle RSA. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel centro storico di Udine era introdotta la zona a traffico limitato, un ritorno al passato in vista del nuovo regolamento sulla viabilità atteso per l'inizio del 2023. Le telecamere saranno accese da gennaio, ma nel primo periodo, dice il comune, non saranno emesse multe. Per evitare gli errori del 2018, a Udine si arriverà gradualmente alla creazione della zona a traffico limitato. Intanto da oggi parte una sorta di sperimentazione con una serie di disposizioni per muoversi nel cuore della città. Non si tratta ancora del dispositivo finale a cui l'amministrazione sta lavorando, ma di un passaggio transitorio per dare modo a chi ancora ha i permessi per l'accesso nella zona a traffico limitato di entrare in centro. Una sorta di riorganizzazione della viabilità con l'individuazione delle zone pedonali e di quelle a traffico limitato. I prossimi passi saranno il controllo delle telecamere, l'organizzazione di un incontro con i portatori di interesse del centro storico, il ritiro dei permessi in vigore con il rilascio di quelli nuovi a chi ne avrà ancora diritto, infine il posizionamento della nuova segnaletica. Con l'entrata in vigore delle nuove regole per l'accesso al centro storico nelle aree strettamente pedonali, vedi via Mercato Vecchio, in una porzione della stessa Piazza Marconi, sui tre lati di Piazza Matteotti o in via Pellicerie, è vietato il transito a ogni categoria di veicoli, compresi quelli al servizio delle persone invalide, ad eccezione delle biciclette. Per impedire l'accesso delle auto sono state posizionate in Piazza Marconi barriere fisiche. Nell'ordinanza si fa cenno anche all'istituzione di stalli per il carico-scarico nelle vie Sarpi, Cavour, Piazza Libertà, via Sarvognana, in via Manin. Il provvedimento riconosce infine il ripristino del regime di zona traffico limitato, quindi accessibile solo dai possessori del permesso, e il divieto nelle aree pedonali. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Proseguirà fino a questa sera alle 22 la chiusura in direzione Trieste della galleria Carso sul raccordo autostradale a Padriciano, dovuta a lavori programmati di manutenzione. Il traffico è deviato sulla viabilità ordinaria. Oltre 320 stand con specialità gastronomiche da tutto il mondo aspettano i visitatori della 17ª edizione di Gusti di Frontiera, che verrà inaugurata a Gorizia alle 17.30. Ci presenta la manifestazione l'assessore comunale ai grandi eventi, Arianna Bellan. Che aspettative avete dopo i 2 anni di pandemia per questa ripartenza di Gusti di Frontiera? Beh, l'aspettativa è alta, non in termini numerici, che speriamo insomma che il pubblico e i visitatori si confermino tanti quanto gli ultimi, ma la voglia di divertirsi, di far festa, di tornare alla normalità. C'è un po' di preoccupazione per le previsioni meteo del weekend? Beh, un po' di preoccupazione c'è, anche perché l'impegno di tempo ed economico sia nostro che degli espositori è tanto. Quali sono gli appuntamenti più importanti? Beh, nello stand istituzionale del comune, che è in piazza Sant'Antonio, troviamo tutte le eccellenze di Gorizia e del territorio, compreso lo Slow Food, che avrà i suoi 13 presidi regionali con varie degustazioni e appuntamenti con chef ed enogastronomia. Come si inserisce Gusti di Frontiera nel percorso verso il 2025, in cui Gorizia e Nova Gorizia saranno capitali europee della cultura? Beh, si inserisce in centro. Gusti di Frontiera è comunque la bandiera del nostro comune, ci ha già fatto conoscere nel nord Italia e in tutta Italia. Ricordiamo che molte volte arrivano pullman e corriere organizzate anche dal sud al nostro evento. Quindi già unendo la cultura enogastronomica di Gorizia, quella del Friuli, vicino a quella di Nova Gorica e tutta la parte slovena, era già un inizio, ecco, del percorso che poi 2025 concluderà. Anche Trenitalia supporterà Gusti di Frontiera con 46 treni straordinari che venerdì, sabato e domenica rinforzeranno i collegamenti DAI per Trieste, Monfalcone, Udine, Pordenone, Sacile, Gemona e Carnia fino a tarda ora. Previste anche tariffe agevolate, tutte le informazioni sul sito di Trenitalia. E in concomitanza con la manifestazione, l'ingresso a tutte le mostre attualmente visitabili a Gorizia sarà gratuito. Sarà il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi, ad aprire questa sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il convegno annuale del Centro Balducci di Zugliano, intitolato Piccoli Segni, la forza dell'utopia in cammino, con Pierluigi Di Piazza. Con il Cardinale Zuppi ci sarà anche lo scrittore e teologo Vito Mancuso e Roberto Scarpinato, già procuratore generale di Palermo. La serata apre una maratona di dibattiti sui grandi temi sui quali si impegnò Pierluigi Di Piazza, il fondatore del centro, scomparso il 15 maggio scorso, e alla cui eredità morale e spirituale l'iniziativa è dedicata. Solidarietà, accoglienza, cultura critica e consapevole di tali valori. Il convegno si concluderà domenica 2 ottobre con una camminata tra la Slovenia e Trieste, ultimo tratto della rotta balcanica percorsa da profughi e migranti. La serata inaugurale nel cuore dell'umanità vedrà anche la presentazione della nuova edizione dell'omonimo libro di Di Piazza. Una salutare camminata del bosco non è solo un modo di dire. Adesso è anche una ricerca scientifica sul campo, effettuata in piena pandemia, nell'estate-autunno 2020, da due ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Federica Zabini e Francesco Meneguzzo. Obiettivo del test era la verifica delle possibilità terapeutiche del contatto con la natura, passeggiando nei boschi. I risultati sono parte integrante del volume Terapia Forestale, che verrà presentato alle 17.30 nell'auditorium della Casa dello Studente Antonio Zanussi di Pordenone, nell'ambito di Affascinati dal cervello 2022, cartellone di appuntamenti dedicati alle neuroscienze a cura dell'Istituto Regionale di Studi Europei. Abbiamo chiesto a Zabini di raccontarci come è stato condotto lo studio. Degli veniva fondamentalmente richiesto inizialmente di rispondere a dei questionari, alcuni per valutare una serie di informazioni, diciamo, sociodemografiche e anche di abitudini legate anche alle aspettative e al modo di rapportarsi al verde, il tono dell'umore, le variazioni del tono dell'umore, anche lo stato, diciamo, legato all'ansia. In seguito venivano misurate a misure fisiologiche limitate appunto a ossigenazione e a parametri del battito cardiaco. Poi appunto veniva invece il percorso, no, vero e proprio nel bosco. Alla fine di questo percorso venivano semplicemente rifatti, no, alcuni questionari e rifatte le prove fisiologiche. Quali sono i benefici del camminare nelle foreste, nei boschi? Si può dire sicuramente che c'è un effetto omeostatico, quindi al di là delle differenze iniziali di ansia, no, che possono essere dovute a molti fattori, anche al genere, all'età, no, allo stato di partenza, diciamo, personale di ognuno di noi, queste differenze iniziali si annullano dopo le sessioni di terapia forestale. Un'altra cosa è che questo effetto appunto omeostatico, quindi di, no, riportare a livelli d'ansia ottimale al di là dello stato iniziale di partenza, avviene soprattutto, cioè avviene fondamentalmente nelle sessioni in montagna. Siamo allo sport, seconda vittoria consecutiva ieri per il ciclista friulano Jonathan Milan, che ha trionfato al photo finish a Zara nella seconda tappa della Crow Race, confermandosi anche leader della classifica generale. E oggi si celebra la giornata mondiale del cuore. A Udine proseguiranno fino alle 16, sotto la loggia del Lionello, le dimostrazioni sulle procedure salvavita che possono essere utilizzate anche da personale non sanitario. Verranno fatte esercitazioni con prove pratiche su un manichino, delle valutazioni da fare in caso di possibile arresto cardiocircolatorio, di come gestire correttamente l'allertamento sanitario e di come attuare le prime manovre di massaggio cardiaco con utilizzo del defibrillatore automatico elettronico. Il nostro giornale si chiude qui da Daniele Lettige e Francesca Vigori, che lo hanno redatto e condotto, Carlo Morello, che ha curato la parte tecnica, Samantha Gonni in redazione. Grazie per la cortese attenzione. Ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.